qualcuno ha suonato prima o suona dopo e ha un cavo dell'alimentazione. Ah. Oh! Il cavo dell'alimentazione ce l'ha il ragazzo che suona con me, che fortuna. Bruno, se puoi accendere la spia di Luca. No, praticamente nella spia di Luca. Bruno, se puoi mettere un disco dei Franz Ferdinand nella spia di Luca. Viviamo nella menzogna. C'è un ragazzo che ha pensato qua. Vedete, il punk fa anche pensare. Il punk, funk, anche pensato. Per capire meglio questo concerto è necessario che vi togliate la maglietta. Quindi non si inizia a suonare finché tutti non vi siete levati. Io vi farò ad esempio. Tutti i maschi almeno, dai. No, tutti i maschi e anche. Tutte le femmine si tolgano i capelli, per piacere. We'll be right back. vedo nessuno che si è tolto la maglietta. Toglietevi la maglietta o finisce qua tutto. Questo, basta. Questo causerà. Lui si è tolto la maglietta. Lui si è tolto la maglietta. Bravo. Grandi. Facciamo un applauso. Le magliette ve le impone la moda, toglietevele. Basta con le magliette. Tutti nudi, tutti nudi. Come disse una volta, come si chiama? Claudio Amendola nel film Ultras. Sei pronto? Non può finire così. Porco Dio! Basso e spia, perché ora accendino. Cosa ci distingue? Cosa ci distingue? Cosa ci distingue? Wow! ecco che mi dicevano di desiderare, ma non sapevo se avrei divorato tutto. Sono l'angolo supplementare! Ho trovato i sogni, poi ho sputato l'osso. E buio mi affiliavo alle ombre, ma intorno c'era solo il ghiaccio crudo e grumi di carne con le bandierine della Norvegia sopra. E le vitate nascendo, con rosi e un pochino, passaggio di stampanti rosso, senza capire ci sono le piotre e le briciole. Buttarti l'arancio nelle ferite! Buttarti l'arancio negli occhi nelle cazzo di ferite! Grazie. Bello. Lo so, essere così tanto belli vi fa dimenticare la nostra musica che è così pregna di significato. Io volevo ringraziare tutti quelli che sono qui, ma soprattutto quelli che non sono qui, che probabilmente sono tipo in un bar a parlare di quanto magari, non so, la demagogia, il populismo di Beppe Grillo. Ma porco Dio santo, questa è una serata che da 6 anni, a parte che tentare di lottare contro i mulini a vento, contro i quali abbiamo già smesso di lottare, non ce ne frega un cazzo dei mulini a vento, se le mettano nel culo con tutte le palle. E, ci piace pensarla come una serata in cui si ritrovano tante piccolissime battaglie quotidiane che hanno bisogno di stare in comunità per poter continuare a esistere. E poi sona. Avete ragione, d'altra parte ascoltate la musica su MySpace, cioè cosa ci devo dire? Thank you. Marco! Di non potere essere una rockstar, ma zio di fare quello che autoproduce i dischi, porco Dio. Il narratore è dubita la velocità del proprio racconto, che la creazione non gli si dà se non per amore di qualcuno che non è se stesso. Poi fanciulle innamorate si uccideranno, tornando come qualcun altro. Non dirmi cosa dire, non dirmi cosa fare, non farmi dire cose che siano fuori e le mie parole siano in terra. Il piano quinquennale non è mica fallito, non è niente partito, che si può dire la storia, o quanto sarà in più, si può dire la storia, sono la tua. Sono delle cittadine, dico cose senza senso. E non è un folle, un gioco di parole che dice la verità. Impariamo a soffocare, prendere per colore. Ci vediamo a fare quello che ci dà le te. La massa è sempre stata pirla, non c'è dubbio. Ciò non toglie che se porco Dio la portiamo in piazza per dei motivi che hanno un senso e la pilotiamo verso dei punti che hanno senso. E perciò il contenuto della prossima canzone è fondamentale per capire il nostro aspetto politico. La prossima canzone si chiama Società Sportiva Calcio, Napoli, 1982-1989. E dice così. And dice, now the end is near, and so I face the final curtain. I stay my curtain. I've lived a life that's full. I travel each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Nizza, Nizza. So I want to get up, you got to say, and see what you smile, what you giraffe. Sweet you fairy, and fairy, and searching for my asset, and hell of tigris, are you seeking? Fairy, fairy, and searching for my asset, and hell I think I'm broken. The power of that cat to say, you say, the one to pay today for an art product, the one to pay today for an art product. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's Gocciati, Polpecina, Ramon, Angel, via, sono così tanto che vado degli ordi, tanto parante da molto. Roby dal bosco, sa che ha sprecato l'opportunità della vita. Due gradi di astigmatismo e per noi è finita. Roby dal bosco libero, è dedicata a Bruno questa. È vero. Prova a aggiustare la mira. Bravi. Sai cosa ti dico la prossima volta? Tiragli pure il flash e la ruota di scorta. Roby dal bosco libero. Ma perché quando ce n'è bisogno non c'è mai una alabarda a disposizione? Dedicata a Andrew Besozzi, oh, il nostro saltatore in lungo di Rieti. Tutto questo concerto è dedicato allo sport comunque. Questo è il prossimo pezzo, è dedicato a un'altra figura concreta della resistenza urbana, che è il fotografo Corona. So, lo so, Ormai no, è no. dei nostri, fa schifo a tutti, ormai ci piace a noi. No, non come potete pensare facilmente la cantante negra, esatto. Corona, cioè this is the rhythm of the night, of the night, oh, the rhythm of my life. Bensì il cantante, il fotografo Corona. Che da cui abbiamo comperato. Nonché la cosa che serve ai re per far capire che sono i re. La corona. Ma faceva ridere a bestia. Boh. Ride. Ah! Da cui abbiamo comperato delle fotografie di tuono pettinato nudo per 50.000 euro. E dopo le mettiamo all'asta. Un po' il nostro pane quotidiano. Adesso facciamo delle canzoni nuove che non hanno senso, però sono nuove. Ma comunque non è nuovo, vecchio, non è importante. È importante quello che vi ricorderete, che saranno tutte cose brutte, quindi. Martino, Natalino, Giulio Bursi, tanti amici, tanti personaggi che hanno accompagnato questo nostro decennio dove non abbiamo concluso niente. La prossima canzone è dedicata ai nostri amici di tutti, insomma, un gruppo che ha fatto il primo festival dell'anti-MTV Day e si buttavano in terra così. E si chiama I Was Fine Before You Came. Avete ancora molti la maglietta, è un errore. La prossima canzone. Più nudi. questa canzone parla che è bellissimo ascoltare la musica su MySpace, non sapere niente del gruppo che la fa, non sapere i testi che scrivono, non sapere l'artwork che mettono nei dischi, e poi dire: ah, ma li conosci? Tipo, lei sapeva di Salame. Sì, sì, ho sentito i pezzi su MySpace. Ma una volta negli anni 90 noi ci compravamo un disco al mese e poi leggevamo tutti i cazzo di testi tutti i giorni, e alla fine del mese Dio Cane c'era entrato anche nel buco del culo il concetto che esprimeva il gruppo. La prossima canzone parla che sta per finire l'impero occidentale, americano, ma non se ne sono accorti ancora e pensano di essere ancora alla fase del saccheggio. Con i baffi mi ha detto una volta: io non voglio andare via prima della fine, del saccheggio per fare la scorta, prima della fine delle trazioni a caso, rantolinando di cibo ruminato, un ombretto rosso sulle palme delle due mani, con solo 9 dita e la mia ferita, il mio unico pregio, il mio unico spregio sullo zigomo, sulla di una rivoluzione, arriva sempre solo quando tutto è già capito. Solo quattro cose da dire. Vuoi convincermi che siano tutte sbagliate? Vuoi convincermi a cantarle in americano? Non credo. Bollica di pane, usa la tempesta, di miele, usa la tempesta, usa la tempesta, bollica di pane, usa la tempesta, e vasetto di miele, usa la tempesta, usa la tempesta, bollica di pane, usa la tempesta, e vasetto di miele, usa la tempesta, bollica di pane, usa la sempre, porci la guancia di un altro e vaffanculo. Grazie. prossima canzone la canta Tuono Pettinato. E sono le Porco Dio ultime due. Per il quale motivo vi invitiamo a montare sul palco, distruggere tutto e poi ricostruirlo per gli Ovo e i Rain. Dopo di noi gli Ovo e The Great Screamo Swindle. Per gli altri gruppi è necessario non avere anche le scarpe. Mi raccomando. Che cazzo ridi, oh? Ce l'ho con me stesso. Da sempre. Grazie, grazie, grazie. Vi leggerò un brano al quale tengo molto, tratto da La mia prigione di Fabrizio Corona. Perché è ora che si sappia la verità. Guai a voi che ora ridete perché sarete afflitti e piangerete. Questo dice il Vangelo e io mi sono sempre imposto di impararlo e ricordarlo sempre. Parlo del processo e delle intenzioni di Di Maio. Ho paura di rimanere qui dentro ancora per un po' perché mi sono comportato in modo troppo aggressivo e prepotente. E questa è un'assurdità. Oh, figlioli. Moggi, Moggi è stato accusato di moltissimi reati, di aver preso in giro i tifosi di tutta Italia per più di 15 anni. E ora è libero, ora è libero. No. Aspettate, la Franzoni è stata condannata a 16 anni per un'accusa infamante ed è libera. Che razza di giustizia è questa? Ma perché? Perché mi hanno riservato questo trattamento? Chi vogliono incastrare veramente? A cosa vogliono arrivare? Comunque, se non mi danno... Ma ragazzi, se non mi danno almeno i domiciliari, bisogna fare qualcosa. Bravo! Grazie. Avete ascoltato qualcosa tipo questo? No. Passare quello che si può saltare, si può saltare, lo avremo, lui può giurare, se si sbaglio si può saltare, ma le cose, non ci posso cambiare, ma la perversa, si è perso che sempre non lo giurare. Thank you. coccodrillo, pesco nel latte, adesso piano, la fine che è, io vado in terra, negano il cuore, sopra di me, ginocchia, dalle ginocchia, venga, sopra di me, sopra di me, sopra di si rompono e tagliano la faccia! Rilo da Sarantero! Acqua! Cazzo va aperto! Ho scritto per... La latte! E mi ginocchia, mi preoccuperei! C'era la neve, qui c'è la pioggia, sto negando vecchia... Ehi! Sono qua! Volante, ho un tocco di lotte, morte per terra, anzi è diverso! Ricordo, c'era la neve, i capelli grondavano, ma ora non sono più le stesse gocce, cazzo sei sciolto, ed ha allagato il ginocchio, anzi no, ha allagato il cuore, che cazzo è la canzone d'amore, romperò nel culo che si apre la chiave! Ho un ombrello nel culo che si apre da sé, ho un ombrello nel culo che si apre da sé. Vedete quelle ragazze lì e quella gente lì? Ecco, prossima canzone è l'ultima, dovete essere tutti sul palco e noi sotto a vedere voi. È l'ultima, Luca. La prossima canzone è vecchia come questa. Si chiama Uomo Pera. Vai, vai, vai. Tutto noi ci proviamo tutti su, eh. Ci proviamo. Uomo pera! Uomo pera! Uomo pera! Uomo palla! Uomo uva! Vai, prova, dai il 4! Dai, è un esperimento di musica sperimentale! Costa! Nizza! A Nizza! Uomo Nizza! Sei? Un nuovo linea generazionale che permette il predatore. Questa bella cosa si è, non è chiaro cosa non ci è. Questa canzone si chiama Uomo Pera! Amico! A caso stasera! Seguendo un criterio! Che prima di adesso, forse a pensarci bene, non fate lo riflesso sugli altri! Disgusto di me! Riflesso sugli altri! Disgusto di me! Riflesso sugli altri! Disgusto di me! Serve schierarmi in poco scontro, certo un nemico, certo sera, un nemico calate, tolgo a cera. Grazie, era tutti giù dal palco. Oh! pippiamo la oh oh oh oh oh oh. Grazie amici, è stato commovente. Dopo veniamo a prendere la colletta, un euro a testa per quello che abbiamo spaccato. Ciao. Oh, oh, oh, oh. Ma noi la possiamo fare questa intervista ai Laghetto? Ce la fa?